Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Quante volte ha interrotto una cura di pillole, per esempio? Beh, diciamo che a me non è successo molto spesso, per fortuna, però forse la mia nonna ne avrebbe da raccontare. Innumerevoli. Benvenuti e benvenute a Möbius, adesso i titoli e poi incominceremo lì. Ma le pillole lasciate per strada. Pillole dimenticate e terapie inefficaci. Un problema sociale, ma anche un gigantesco costo economico. Anche quest'anno a Sarzana si tiene il Festival della Mente. Vi proponiamo alcuni dei temi: litigare fa bene e annientare i mostri. La carta d'identità dell'olio extravergine, ma anche dell'olio per motori e per la cosmesi. Un nuovo metodo italiano a basso costo per smascherare le contraffazioni. Stampanti 3D e app per cellulari sono gli ingredienti base per un Fab Lab, ma possono essere usati a scopo sociale ed educativo. Allora, come dicevo prima, parliamo di pillole dimenticate. Sì, e anche di altre cure più complicate. Farmaci, via. Per parlare di questo tema abbiamo chiamato Fulvio Bruno, amministratore unico della FB Communication, che è una società coinvolta in questo progetto proprio nella parte di comunicazione, come sentirete. Buonasera Fulvio Bruno. Buonasera a lei e ai vostri ascoltatori. Buonasera. Allora, l'abbiamo introdotta così brutalmente, il tema però è sostanzialmente questo, è un tema che riguarda tutti quelli che ci ascoltano, secondo me, nessuno escluso, vabbè, qualche campione ci sarà. Ne parliamo con lei perché lei è al centro di un progetto che vede anche centri di ricerca, no? E il tema è questo che io ho annunciato. Magari ci dica chi sono gli attori di questo progetto. Sì, certo. Hanno partecipato alla realizzazione di quello che è stato definito Interactive Monitoring Service, quindi un servizio finalizzato al monitoraggio dell'aderenza terapeutica. L'Università di Ferrara, la Facoltà di Ingegneria, è un board scientifico internazionale composto da alcuni opinion leader a seconda delle aree terapeutiche nelle quali avevamo intenzione di approfondire l'argomento. Okay. Quindi, ci dice un po' che cosa significa interrompere le cure in termini di salute, in termini economici, perché c'è un report, un'analisi che è stata fatta che è veramente molto anche scioccante per certi aspetti. Beh, consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già identificato come nel 50% i pazienti cronici che non assumono correttamente i farmaci come prescritto e soltanto un terzo generalmente aderisce completamente alle indicazioni terapeutiche, mentre per esempio negli studi clinici si riescono a raggiungere livelli del 70-90% di aderenza, nella pratica clinica questi dati si riducono in maniera molto sensibile e per di più l'aderenza tende a diminuire già a partire dal decimo giorno di terapia. E questo chiaramente è uno svantaggio per la persona che non li prende, ma anche economicamente per quella che è tutta la gestione sanitaria. Assolutamente, quello che le diciamo ricadute della non aderenza o non compliance, come si dice in gergo, si riflettono a livello di inadeguato controllo della malattia, aumento del rischio delle complicanze, esiti clinici sfavorevoli, e questo diciamo è il costo sociale che ha una enorme ricaduta in termini di costi finanziari. E cifre? Per dare qualche numero, negli Stati Uniti il 43% della popolazione generale, il 55% degli anziani e il 54% dei teenagers non è aderente, con un 10-25% di ricoveri in più che sono esclusivamente riconducibili alla fatto che il paziente non abbia seguito correttamente l'indicazione terapeutica, e questo produce 125.000 morti ogni anno che potrebbero essere evitate, con un costo pari a 100 miliardi di dollari all'anno e uno spreco della spesa medica pari a 290 miliardi di dollari. Veramente delle cifre impressionanti. Beh, ricordiamo che l'intervento di Obama per la grande crisi è stato di 1.000 miliardi di dollari. Qui stiamo parlando di frazioni, no? Un terzo, un quarto di quelle. Veramente cifre impressionanti. Per esempio in Europa la spesa che è riconducibile alla mancata aderenza terapeutica è pari a 1,25 miliardi di euro, con circa 200.000 morti premature ogni anno. Sì, beh, anche le cifre europee, devo dire, significative. sono assolutamente significative. Recentemente sono stati pubblicati i dati del rapporto OSMED 2013 che si riferiscono ai dati del 2012, la stampa ne ha fatto una ampia menzione, e anche da questi dati emerge il riscontro che gli antidepressivi, per esempio, piuttosto che i farmaci per il trattamento delle malattie croniche respiratorie o i farmaci per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, si fa riferimento per esempio alle statine, sono essi stessi ancora molto poco assunti in maniera corretta, con percentuali che non superano il 38-40%, addirittura nell'ambito delle malattie respiratorie croniche ostruttive il 14% soltanto dei pazienti sono aderenti. Qui c'è di mezzo non stranissimi impedimenti, c'è proprio una nostra incapacità psicologica di relazionarci alla terapia. Voi che cosa avete messo in moto? Mi consenta soltanto di sottolineare quelli che sono gli aspetti che possono essere alla base della mancata aderenza, e parliamo quindi di una componente multifattoriale. Ci può essere, sicuramente c'è una componente legata al paziente, e quindi il fatto che il paziente non abbia una chiara percezione del livello di gravità della patologia o degli eventuali esiti che la patologia medesima può determinare. Ci possono essere delle difficoltà legate al sistema sanitario e quindi procedure di rimborso che non sono adeguate, scarsa contribuzione ai meccanismi di medicazione. Certo. Piuttosto che aspetti legati alla terapia, quindi per esempio una terapia cronica sicuramente è ben diversa di una terapia che tu esaurisci nell'arco di qualche settimana, verso la quale hai un impegno psicologico più stringente. Possono esserci fattori legati alla assunzione di più farmaci, e questo per esempio nel paziente anziano con patologia cronica è una eventualità molto ricorrente, quindi in generale la complessità del trattamento a cui sei sottoposto. Sì, poi la malattia, l'aderenza chiaramente tende a ridursi laddove la mancata assunzione del farmaco non è strettamente correlata alla comparsa di un sintomo rilevante, e quindi la severità dei sintomi e quindi il livello di disabilità che questi possono produrre sono elementi che concorrono a determinare il profilo del soggetto non aderente. E in questo contesto, sì, Bruno, ci dica che cosa avete sviluppato. Le soluzioni che fino ad ora erano prevalenti in questo settore, anche a livello internazionale, avevano secondo noi un grosso limite. Fondamentalmente il paziente svolgeva un ruolo passivo, e mi riferisco fondamentalmente a quelli che vengono chiamati reminders, anche soltanto l'invio di un SMS, che è la prima soluzione che è stata adottata già diversi anni fa, per esempio, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il nostro sistema invece è quello che è in grado di interagire direttamente con il paziente, e il paziente svolge un ruolo attivo. Il nostro sistema, sulla base del protocollo terapeutico, è attivato dal medico, il quale ne è l'unico responsabile, quindi noi non entriamo minimamente nel rapporto medico-paziente, non interferiamo minimamente con il protocollo terapeutico. Il sistema, sulla base delle istruzioni che ha ricevuto, diciamo così, dal medico, contatta il paziente quando questi deve prendere quella determinata molecola. Cioè c'è un operatore che fa una telefonata proprio. Non è un operatore umano, quindi non è un call center, c'è una voce umana preregistrata che pone al paziente pochi quesiti, il tutto deve esaurirsi in un minuto e mezzo per non apparire troppo invasivi, e il paziente risponde avvalendosi o della tastiera o del touchscreen se per esempio il contatto avviene mediante il ricorso ai nuovi device. Il cellulare, certo. Che tipo di domande fa? Del tipo, signora Rossi, ha preso la sua pillola per la pressione? Assolutamente sì. Ecco. Le domande vengono concordate con l'ente pagatore, quindi con gli obiettivi che ci si pone con questo tipo di servizio, e nel caso in cui il paziente risponda no, si può decidere di approfondire l'argomento, vale a dire non l'ha presa perché ha esaurito le scorte, perché se ne è dimenticata, semmai è in viaggio e per oggi non può più prenderla, oppure, sempre a discrezione di chi è l'ente pagatore, si può approfondire il motivo per cui il paziente non prende il farmaco se sono comparsi degli effetti collaterali. E però nel caso appunto riscontriate queste anomalie, cioè non l'ha preso perché l'ha dimenticato, non l'ha preso perché ha deciso che gli fa male, allora a quel punto voi come agite? Cioè intervenite attivamente sulla cosa? La informazione in tempo reale viene trasferita su una pagina web dedicata che noi sviluppiamo per tutti i medici coinvolti in questo protocollo. E quindi il medico in tempo reale può registrare le informazioni del paziente e quindi lui decidere se intervenire come meglio o meno intervenire. Certo. Noi specifichiamo che il medico può rispondere a partire dalle 24 ore, proprio perché in nessuna maniera vogliamo essere assimilati con un sistema di pronto soccorso, e non è quello lo scopo. Va bene, grazie Bruno, buon lavoro. Grazie. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La prossima settimana, il prossimo weekend, da venerdì a domenica sera a Sarzana c'è il Festival della Mente, il programma è infinito, andate in rete, digitate Festival della Mente e lo vedete tutto. Noi abbiamo scelto qualcosa, un paio di cose, quelle che ci sono sembrate più stimolanti da segnalare via radio, e incominciamo con Litigare fa bene. È un titolo un po' strano, un po' provocatorio, ma invece dietro c'è molto pensiero e molto ricerca. Chiamiamo questa sera a parlarci di ciò Daniele Novara. Buonasera Novara. Buonasera. A tutti. Intanto ci dica perché lei insegna all'Università Cattolica, fa ricerche su temi che riguardano la pedagogia e in particolare lei su queste tematiche, appunto, del litigare, e Litigare fa bene è anche il titolo di un libro che è suo, appena uscito, un saggio da Rizzoli. Dicevo prima provocatorio, ma neanche mica tanto, no? No, in quanto dal punto di vista scientifico, specialmente psicologico, è da almeno 30 anni che sappiamo che almeno nei primi 6 anni di vita i bambini hanno grandi competenze nel trovare una conciliazione, diciamo un accordo quando ci sono i litigi. Specialmente le psicologhe di area anglosassone hanno lavorato tantissimo e hanno riscontrato che i bambini anzitutto litigano tanto, ma che il litigare è una variabile corrispondente all'amicizia, quindi litigano con gli amici e non con gli estranei. Non solo, che il litigare è una variabile importantissima del gioco, cioè non ci può essere gioco infantile, in altre parole, senza questi momenti di contrasto e di divergenza che noi poi chiamiamo litigio, ma che il bambino non necessariamente rubrica in un contesto drammatico, come viceversa lo vedono i gli grandi adulti. E poi fanno facilmente pace, insomma, non servono rancore. No. Sì, ma neanche il concetto di pace, un concetto infantile, semplicemente continuano a giocare perché il loro pensiero è un pensiero concretistico e quindi opportunistico, per cui se dovessero avere rancore con il loro amico da cui hanno ricevuto una spinta, l'amico poi se ne va a giocare con qualcun altro, certo, loro si ritrovano soli e quindi hanno tutto il vantaggio, tutto l'interesse a tenere dentro la spinterella che hanno ricevuto e continuare a giocare in questo modo. Addirittura in un'ora qualche ricercatore in contesti familiari ha riscontrato che bambini piccoli possono mettere insieme addirittura 52 litigi. Certo. Sono delle cifre piuttosto significative. C'è un'altra ricercatrice che addirittura ha dimostrato che se gli adulti nei primi 6 anni di vita aspettano almeno un minuto, ecco che il bambino riesce ad accordarsi con il suo coetaneo con cui ha litigato. E come no? Sappiamo che nei primi 6 anni non c'è un pensiero violento nei bambini, un'intenzionalità violenta. Ecco, questo è una differenza importante. Dopo, insomma, però vuole... questo fino a che età? Cioè lei parla di età infantile, quindi fino ai 10 anni possiamo lasciarli litigare? Diciamo che i primi 6 anni sono i più favorevoli in assoluto, poi la seconda infanzia è favorevole, bisogna avere qualche attenzione. Ecco, senta, però dopo un po' cosa succede? Che questo atteggiamento del litigio può invece complicarsi. Io penso ad esempio agli adolescenti, quella ribellione che maturano magari con l'età, molte volte non è così invece salutare. Sì, certo, però mi permetto magari di fare un passo indietro, ossia io non dico ai genitori non fate niente, dico ai genitori fate la mossa giusta, così come agli insegnanti. Qual è la mossa giusta? È quella di far parlare i contendenti, quindi è un metodo basato sullo scambio no, diversioni fra i bambini piccoli e anche più grandicelli. In questo modo c'è una decantazione e una decontrazione che permette di raggiungere successivamente un accordo. Quindi i genitori, gli educatori devono sospendere la ricerca del colpevole. Questo è l'elemento più importante, quello che definisco un passo indietro. Poi un altro passo indietro è di non imporre la soluzione. In questo modo si arriva ai due passi avanti. Il primo passo avanti è appunto quello di farli parlare tra loro, in modo che imparino ad ascoltare le ragioni reciproche. Ma quando i ragazzi crescono, i genitori, diciamo, hanno poca parte. Quando sono a scuola, ad esempio casi di bullismo, casi di liti, anche piuttosto anche pesanti, certo, violente, tra ragazzi di una certa età, ecco, in quel caso lì invece fa sempre bene? Invece, ecco, io vorrei dire questo ai genitori, attenzione, una buona infanzia è la cosa migliore anche per l'adolescenza, quindi non è che tu prendi l'educazione dall'adolescenza, l'adolescenza è un esito dell'infanzia, per cui il fatto che il metodo si concentri sull'infanzia non è perché voglio lavorare con i bambini, ma perché se lavoriamo bene con i bambini poi otteniamo anche degli adolescenti migliori che sanno farsi rispettare rispettando gli altri. È ovvio che quindi in adolescenza trovi lo scombinato, trovi anche un po' lo ragazzino psicolabile che ha avuto un'infanzia del cavolo, mi scusi se uso questo termine. Vabbè, ma ci capiamo. E allora il nostro figliolo, che invece è stato abituato a litigare bene, sa come affrontare questo tipo di situazioni e non si mette nei guai, perché purtroppo gli psicopatici in giro ci sono sul serio e nell'adolescenza vengono fuori, ma noi vogliamo che nostro figlio sia in grado di affrontare queste situazioni, o vogliamo creare le guardie del corpo a nostro figlio? Va bene, questo insomma, è molto lei importante. Dice bisogna lavorarci sì, dall'infanzia, se no dopo è troppo tardi, certo, dopo si raccolgono. È un po' tardi, ma in tutti i casi possiamo poi fare assolutamente degli interventi anche nell'adolescenza, ma con un altro taglio. E gli adolescenti con carenza conflittuale li conosciamo, purtroppo sono bambini che sono stati in genere anche picchiati, che cercano di picchiare gli altri, sono ragazzini fragili e che avrebbero dovuto avere apprendimenti che purtroppo non hanno avuto. Adolescenti sgridati, urlati, non so come dire. Ecco, usciamo da questo mondo della colpevolizzazione e entriamo in un mondo come dell'educazione, dove ci sono le regole, ma dove anche c'è la capacità di aiutare, no, i nostri figli a imparare le cose giuste per la vita. Allora Daniele Novara, ricordiamo la sua lezione su questa cosa, insomma l'appuntamento è domenica alle 10 del mattino. Domenica lì a 31 Sanzano. Luglio. Domenica eh? 31, la prossima settimana. Grazie Daniele Novara e buon lavoro e buona ricerca. Grazie a voi, buon lavoro. E adesso andiamo da un mostrologo. Sì, è sempre uno degli appuntamenti del Festival di Sarzana, che si terrà il prossimo fine settimana. Diamo il benvenuto a Matteo Pompili, il nostro mostrologo. Buonasera a tutti. Lei ci ha studiato... scusi, l'abbiamo presentata in questa maniera così sì, poco elegante. Ma lei ha studiato mostrologia, credo. No, va benissimo. Allora, ci sono degli appuntamenti per tutto il sabato, dalla mattina verso fino a sera, dedicati ai piccoli, nei quali gli fate fare degli strani esperimenti per interpretare e spiegare i mostri. Quali mostri poi? Sì, esatto, apriremo un laboratorio di mostri in cui i ragazzi diventeranno degli scienziati dei mostri, nel senso che dovranno scoprirne le caratteristiche e trovare esperimenti che ne neutralizzino i loro poteri. Senta, ci fa qualche esempio? Mica facile, assolutamente. Allora, uno dei mostri più terribili che i ragazzi dovranno affrontare sarà la Banshee, cioè questa specie, diciamo così, com'è fatta nessuno lo sa bene, perché lei non si fa vedere, ma si fa sentire. E il suo urlo si dice che, per chi lo sente, vuol dire o la propria morte o la morte di un caro vicino. Quindi non è che porta proprio benissimo. No, esatto, fa abbastanza paura. Fa paura. Esatto, quindi come fare per neutralizzare la Banshee? Che scusi, è un mostro che deriva da, da dove? Dalle tradizioni, è un mostro irlandese che sta nelle foreste, si nasconde e niente, appunto, nessuno l'ha mai visto, ma inquieta parecchio le persone. Inquieta pure noi. E loro cosa devono fare? Devono trovare un modo per... Un modo per neutralizzare un suono con un altro suono. Quindi loro avranno uno strumento di fatto di legno e uno spago e dovranno capire come metterlo assieme e con una serie di movimenti farlo suonare, che di fatto questo strumento è poi quello che viene definito il telefono aborigeno, che però per i ragazzi vuol dire capire che cos'è una vibrazione, quindi mettere in vibrazione dell'aria per produrre un suono che nel caso si incontrasse la Banshee è sufficiente tirarlo fuori e il suo strillo, il suo urlo di terrore in quel momento viene anestetizzato come un vaccino. Certo che siete astuti, astutissimi. Cioè loro catturano l'attenzione delle bambine e bambine con il mostro, però gli insegnano la sperimentazione scientifica. Fate questo. Sì, esatto. Diciamo che i mostri sono una via per entrare in un immaginario lontano dalla scienza, ma per affrontarli dal punto di vista scientifico, quindi analizzarli, osservarli e poi con esperimenti più o meno usati come trucchi, però esperimenti veri, scoprire cosa fare e intervenire. Ci dica un altro mostro brevemente. Un altro mostro che incontreranno sarà il troll. Il troll, ma questo, anche questa mitologia svedese, norvegese. Sì, mitologia nordica che poi è un po' più uguale, ma si sovrappone anche all'orco, quindi questi mostri che non sono intelligenti ma hanno questa forza brutale, e l'altra cosa, spesso e volentieri gustano la carne umana e quindi se li incontra anche in questo caso... È certo che li avete scelti spietati. Volete terrorizzare. Va bene. E come fanno ad annientarlo? Qui per annientarlo una sfida di intelligenza, perché il troll è vanitoso, presupponiamo, visto? Vedi? Quindi l'idea è, guarda, prima di mangiarmi una sfida di forza, il lato più sensibile di un troll. Io dico a te che non riuscirai a separare due libri, due elenchi del telefono che saranno assieme senza colla. Cioè, togliete l'aria, cosa fate? No, è una cosa di attrito, quindi sovrapponendo questi due elenchi pagina a pagina, i ragazzi, che devono capire loro come fare, arrivano, devono poi, diciamo, sfidarsi tra di loro per vedere se hanno capito come fare. Aspetti che potrei essere mangiata dal troll perché non ho capito. No, però, no, momento, scusate, non può dirlo perché se qualcuno ascolta poi porta certo, lì. Arriva preparato. Arriva lì e il suo piccolo ha un successone, non è giusto. Ah, è vero. Non può dire niente. Non ci pensavo. Rimango così col dubbio. Poi ci sentiamo dopo dopo la trasmissione, dopo il festival, ce lo dice come si fa. C'è qualche mostro italiano che ci vuole introdurre? O? Ma guardi, sa che adesso spero di non far figuraccia, di non ricordarmi più i mostri che ci sono, ma mi sembra che italiani non ne abbiamo scelti. Ah, vede, vuol dire che non ne abbiamo molti. No, c'è, diciamo, l'internazionale uomo nero, ecco. Quello c'è anche in Cina ormai. Certo. Esatto, però proprio italiano tipico no, non ci sono. Grazie Matteo Pompili, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Ci sentiamo dopo. Ci sarà il pienone Pompili e noi invece ci sentiamo dopo. Va bene, speriamo, grazie. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh Chiara, dov'è che c'è l'olio? Dappertutto. Dappertutto, poi dipende da che olio tu stai parlando. Vergine, extravergine, però c'è anche l'olio nelle macchine, nei motori. E certo, l'olio abbronzante. Eccolo. Quanto mai di attualità, insomma. Oppure qualcuno si starà facendo una bella bruschetta con l'olio d'oliva extravergine. Noi partiremo dall'olio d'oliva e finiremo ovunque oleati. E il nostro ospite questa sera è Tommaso Pardi. Buonasera Pardi. Buonasera a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Allora, lei è un imprenditore, fa olio d'oliva, però qui è chiamato da noi come gestore di un sistema per la certificazione dell'olio extravergine. Una vera e propria carta d'identità dell'olio. Esattamente, un documento di riconoscimento per l'extravergine, Però la valorizzazione delle nostre patrimonio italiano, di queste cultivar che sono circa 600 in tutta l'Italia. 600 tipologie diverse. Procediamo un attimo con calma, velocemente. Intanto questo è un consorzio che però nasce anche in sede di ricerca, c'è dentro pure il Consiglio Nazionale di Ricerca, il CNR. Esattamente, questo è una partecipazione mista, pubblico-privata, che è partita nel 2009 grazie a un bando OIGA del Ministero delle Politiche Agricole, dove prevedeva che un giovane imprenditore agricolo si mettesse insieme al mondo della ricerca per trasferire, fare qualcosa di innovativo appunto nel settore agricolo. Il giovane imprenditore agricolo era lei? Esatto, ecco. Io sono a tutti gli effetti, continuo ad esserlo, anche se con tante difficoltà per il mondo agricolo, però anche tante soddisfazioni poter lavorare in questo settore. E avete messo a punto un sistema per poter stilare appunto questa carta d'identità di cui ci diceva in apertura. Esatto, nonostante l'Italia sia ricchissima di varietà, di cultivar, e ci siano anche ad oggi 42 consorzi DOP e IGP, c'è sempre il problema della sicurezza alimentare, della qualità, ma soprattutto di avvicinare di più il consumatore, il normale consumatore, al prodotto, alla filiera agricola, ad arrivare direttamente al frantoio del produttore. Ecco, ma perché non funziona il meccanismo di certificazione, cioè non funziona così bene come dovrebbe questo meccanismo di certificazione con le varie carte che accompagnano la produzione? Ecco, infatti, perché i meccanismi tradizionali sono fatti di certificazioni cartacee. Esattamente, tutto si basa sul cartaceo e accompagnato comunque a delle analisi specifiche chimiche. Esatto, il sistema cartaceo normalmente noi lo conosciamo anche come la burocrazia, quindi gli adempimenti, gli annosi adempimenti che comunque ogni azienda deve essere sottoposta. Poi c'è tutta la parte chimica, che è lunga e molto costosa, si parla anche di qualche giorno per arrivare a delle analisi specifiche. L'innovazione che abbiamo messo sul piatto, in campo, per usare un termine giusto, è quello di unire la velocità, la rapidità, un test diretto e di facile trasferimento tecnologico. Cioè vi arriva dell'olio e voi con il vostro procedimento ci dite, per esempio, fondamentale, se è o no extravergine. Esattamente. E che procedimento è? Come fate? Allora, è molto semplice. Noi usiamo un procedimento fisico, come avete detto, con la calorimetria, cioè i passaggi dallo stato solido, quindi da come ghiaccia, da come cristallizza l'olio, fino ad arrivare alla fusione. Questi passaggi termici, questa fusione e cristallizzazione, dà una curva, un'impronta, un fingerprint dell'olio. Noi l'abbiamo chiamato la fotografia calorimetrica. Ecco, per essere precisissimi, così lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, la calorimetria è un sistema che si usa in generale e che ci può dare per analizzare qualcosa, diciamo genericamente qualcosa, usa diverse situazioni di temperatura a cui questo qualcosa è sottoposto, e a seconda di come reagisce abbiamo dei dati sulla natura, no, di questo oggetto. In questo caso abbiamo a che fare con l'olio, che voi cosa fate? Sottoponete a diverse temperature, per esempio il raffreddamento? Sì, in generale questo frutto del procedimento è stato oggetto di brevetto nazionale ed internazionale. A grandi linee possiamo dire che lo portiamo a meno 50 gradi e poi lo portiamo a più 60 gradi in una fascia di tempo che è di 30 minuti. E questo vi restituisce che cosa? Un grafico peculiare per quella cultivar, per quel determinato olio. Esattamente. Di sé per sé la calorimetria, l'analisi calorimetrica, non è che sia sufficiente a dire se è extravergine o no, oppure se viene da una determinata zona geografica. Quello che è importante è avere un bellissimo e molto ampio database, una selezione di tutti i dati, che poi in maniera statistica e con algoritmi, anche questi brevettati, riescono a identificare e a darci delle informazioni più precise e più dettagliate. Cioè le confrontate con dei dati. Voi ne avete già un bel po'? Sì, noi ad oggi, fate conto che siamo partiti a fine 2009, oggi abbiamo 4.000 oli extravergine. Quindi diciamo che il lavoro più grosso è all'inizio, nell'organizzare il database, perché una volta che si ha il database, poi il confronto, diciamo, è più rapido, è rapidissimo. Esattamente, archiviarlo, alimentarlo, provare anche gli oli estremi, cioè quelli che sono, come si può dire, nella fascia al limite dell'extravergine, quindi i casi limiti, e soprattutto l'affidabilità della banca dati, della banca campioni. Ecco, forse dal vostro punto di vista ci conviene specificare questa definizione. Allora, olio extravergine si distingue dall'olio d'oliva in generale per un meccanismo di raffinazione sofisticato. Esattamente. L'extravergine è l'olio che ottiene, si riottiene solo mediante procedimenti meccanici. E poi uno dei parametri che è stato per anni l'asticina della qualità o meno è il grado di acidità, che è 0,8%. Però poi dopo dall'extravergine si arriva all'olio di oliva, dove ci sono i procedimenti di raffinazione, cioè si eliminano tutte le imperfezioni che può contenere un olio non extravergine, quindi difettato, avere dei sapori, dei retrogusti di rancido o morchia, che fanno sì che difettano l'olio e non lo rendano più extravergine. E questi procedimenti non sono più meccanici. Esattamente, si tratta di procedimenti chimici, delle correzioni chimiche che vanno a migliorare il prodotto. Ma col vostro sistema voi individuate anche come le famose iniezioni di altri oli, quindi? O le contraffazioni. E le contraffazioni, e li individuate meglio che le analisi chimiche? Allora, diciamo che le individuiamo con un errore più basso. Fate conto che secondo la nostra ricerca, per individuare una contraffazione si arriva a un errore del 5%, col metodo calorimetrico, o meglio con la carta d'identità, con 3% di altra tipologia di olio all'interno. E quindi questa è una poi bella, lo certo. Sottolineiamo, in uno spazio di tempo molto breve, 30 minuti, ed un costo per analisi che si aggira sui 60 euro, quindi vedete voi che risparmiamo molto tempo e soldi. E soprattutto anche è un sistema ecologico, perché noi prendiamo una goccia di olio e non usiamo nessun reagente, utilizziamo il prodotto tal quale. Per sua esperienza, quali sono, diciamo, gli oli o le contraffazioni più diffuse? Per esempio, si parlava di robe che arrivano dalla Turchia. Esatto, mi ha tolto proprio le parole di bocca, ed è anche un esempio molto carino, se vogliamo. 5 anni fa il problema principale era quella di inserire, di fare delle miscele con base a olio extravergine e poi diluirlo, allungarlo, ecco quindi la frode, con olio di nocciolo. L'olio di nocciolo chimicamente non si riscontra facilmente. Scusi, lei per nocciolo intende... Non è roba di oliva? No, tutta un'altra pianta, le nocciole che vengono utilizzate. Cioè, le nocciole piemontesi, per intenderci. Sì, però turche. Dalla Turchia. Okay. No, l'olio è un olio neutro, un'ottima base, se vogliamo dire, per i contraffattori. Benissimo. Il problema era trovare la qualità dell'extravergine e arrivare a un test che identificasse fino al 3-5% di questa presenza. Benissimo, l'economia è cambiata, soprattutto l'olio di nocciolo ha avuto degli sbocchi ed ha tuttora degli sbocchi interessantissimi. Considerate che per la cosmesi viene venduto anche a 50-60 euro il litro, in confronto alle nostre, quando va bene, 9 euro il litro dell'extravergine. Perché ha proprietà idratanti, quindi viene utilizzato per creme, beh, in questo modo qua. In generale, ecco, quindi poi sì, ha molte applicazioni, okay, quindi largo uso e diffusione. Benissimo, il problema è inverso, cioè trovare l'olio di oliva o l'extravergine all'interno del nocciolo. Dell'olio, certo, perché a questo punto... Perché in quel caso costava meno buttarlo dentro. Esatto, costava qualcosa come, vado per... approssimazione, 0,50 euro il litro, quindi inserire più olio di nocciolo voleva dire aumentare i guadagni per i frodatori. Ma anche se la materia prima era la stessa, no? L'olio di nocciolo è sempre olio di nocciolo, sia nel primo caso, esatto, che... Sì, però, cioè, è un effetto di mercato quello di cui lei ci sta dicendo, cioè improvvisamente l'olio di nocciolo è finito nella cosmesi, vale molto, e allora lì dobbiamo trovare l'inquinante che è l'olio extravergine. Oh, ma di proprietà salutistiche anche per la cosmesi superiore l'applicazione. Certo, ma voi vi interessate allora, perché qui state con il vostro sistema andando dappertutto, anche di olio di automobili, prima lo dicevamo all'inizio come una buttata, ma anche lì. Allora, la bellezza del nostro sistema carta d'identità è quello anche di lavorare con un ente pubblico, con il CNR, l'IPCF e di Pisa. Come abbiamo detto precedentemente, il sistema carta d'identità, valorizzazione dell'extravergine, riconoscimento dell'extravergine funziona se la nostra banca dati è sempre aggiornata e quindi riconosciamo altre tipologie di oli. Benissimo, nei laboratori PCF l'evoluzione e la voglia e la ricerca è sempre avanti e allora abbiamo pensato di portare il sistema carta d'identità non solo sulla tracciabilità dell'extravergine ma tutta la famiglia degli oli e quindi l'olio per la farmacopea, per la cosmesi, ma anche per i biodiesel. La tecnica è la stessa. È la stessa. La banca dati è la stessa, i sistemi informatici chiaramente vanno modificati, però il know-how ce lo abbiamo e quindi l'idea di portare avanti questa TOCAL, la carta d'identità per gli oli a 300. Ma perché, scusi, anche l'olio dei motori viene in qualche modo tagliato con altri oli di altra origine? No, in questo caso non proprio tagliato, ma la qualità degli oli, quindi determinati motori per avere certe prestazioni hanno bisogno di un prodotto che abbia caratteristiche costanti. In questo caso noi non andiamo a vedere se ci sono delle contraffazioni, ma se il fornitore o la qualità dell'olio ha quelle caratteristiche che il costruttore o il produttore richiede. Certo. Senti, in conclusione però ci dica invece, tornando al cibo, diciamo al food, le contraffazioni sono ancora fortemente presenti? Allora, le contraffazioni sono sempre presenti, però c'è da dire una cosa, noi che lavoriamo con anche piccoli produttori c'è una grandissima voglia di far emergere le qualità italiane. Quindi ben venga questo sistema e il nostro entusiasmo è dal fatto che tanti piccoli produttori che vogliono avere un sistema che possa mettere finalmente in contatto diretto con il consumatore e valorizzare la propria identità si rivolgono a noi per utilizzare la carta d'identità e tutti i sistemi informatici che riescono a dare trasparenza, serenità e qualità sul prodotto extravergine. Perché la vostra certificazione è sicuramente utile, ad esempio, per un produttore per in qualche modo fornire al consumatore un attestato di qualità e potrebbe però anche servire, che ne so, agli enti preposti per il controllo, ad esempio le ASL. Questo sistema di valorizzazione di identificazione è tuttora utilizzato dalle politiche agricole per arricchire ed ampliare la loro banca dati, ma soprattutto anche per gli uffici delle dogane lo stiamo proponendo per far sì che la calorimetria, la carta d'identità degli oli sia un test di prima istanza, di screening. In 30 minuti con poche decine di euro si riesce già a identificare un olio e poi magari andare con i sistemi normati a smascherare le frodi. Ok, allora grazie Pardi e davvero buon lavoro. Grazie a voi e a presto, risentirci su queste frequenze. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono stato a visitare un Fab Lab qui a Milano, si chiama WeMake e ho parlato con Costantino Bongiorno che è uno dei gestori di questo Fab Lab, di questo laboratorio. Adesso capirete subito un po' di che si tratta, ma in generale sono quei luoghi dove si concentrano alcune macchine estremamente efficaci e semplici da gestire come per esempio le stampanti 3D. Ho incominciato a parlare con Costantino chiedendogli ad oggi quanti sono approssimativamente i Fab Lab in Italia. Una cinquantina ormai, realtà che si stanno affermando, alcune appena nate, altre più consolidate, ma siamo su quel numero o l'ordine di grandezza lì. Che cosa si fa in un Fab Lab? Che cosa offre il Fab Lab al territorio in cui si muove, dal punto di vista proprio tecnico? In un Fab Lab si fanno le cose con macchine solitamente a controllo numerico, macchine tipo le stampanti 3D, tipo i laser cutter o le macchine a controllo numerico tradizionale tipo le frese, ma si fanno le cose in generale, nel senso che tutti gli strumenti che sono all'interno di un Fab Lab consentono alle persone di costruire delle cose fisiche. Sono oggetti che possono essere costruiti, tantissimi, non tutti quelli che abbiamo intorno, ce ne sono alcuni che sono ovviamente troppo complicati, però sono veramente tanti e queste tecnologie molto leggere, come la stampante 3D, effettivamente stanno introducendo un nuovo grande orizzonte dal punto di vista della produzione, dal punto di vista anche dei costi di questa produzione, no? Sì, assolutamente, alcune sono tecnologie assolutamente consolidate, tipo quelle per asportazione di trucciolo. Una fresa a controllo numerico ormai è una tecnologia anziana, sì, ha più di 50 anni. Le stampanti 3D stesse hanno ormai più di 20 anni come tecnologia, ma stanno venendo adottate da pubblici sempre maggiori, da persone sempre meno professioniste di questi temi. Infatti la differenza, sulla quale poi ragioniamo subito perché è questo l'aspetto particolare del vostro progetto, la differenza è che in questi luoghi si può venire per costruirsi dei propri oggetti, e quindi ecco questo un'enorme differenza col passato, cioè non c'è più la produzione centrale di centinaia di migliaia di oggetti, si potrebbe arrivare ad avere una produzione locale, uno che si fa la propria presa, il proprio tavolo, la propria sedia, no? Si può arrivare a questo. E però appunto viene a crearsi anche un habitat, un territorio nel quale non c'è più solo il professionista che produce l'oggetto e che poi uno si compra in un negozio. Arriva la gente, arrivano cittadini, cittadine, arrivano tanti giovani, possono arrivare alle scuole. È un luogo nel quale si può costruire un rapporto con il produrre e il fare oggetti completamente diverso. Secondo voi, se non sbaglio, in questo progetto bisogna lavorare su questo aspetto culturale che non è solo tech? Sì, assolutamente. L'idea è proprio quella di dare accesso agli strumenti, vuol dire in qualche modo abilitare le persone a fare ciò che credono, ciò che vogliono, ciò che desiderano, ciò di cui hanno necessità. E dai desideri e dalle necessità possono nascere dei progetti che soddisfano per prima loro stessi, ma poi anche le persone che stanno intorno, addirittura fino a far diventare questi oggetti, queste invenzioni, dei veri e propri prodotti. Non c'è più soluzione di continuità. Le tecnologie digitali consentono di avere basse barriere all'ingresso, all'utilizzo di queste macchine, o relativamente basse. Di certo non è come stare a bottega da un artigiano di Murano per 2 anni per riuscire a imparare il mestiere. Queste tecnologie ti consentono di studiare alla maniera di internet, guardando i tutorial, leggendo le cose online. Sono degli strumenti digitali, per cui se uno è un po' non particolarmente bravo con le operazioni manuali, non importa, diciamo, la tecnologia ci mette una pezza. E c'è anche un'intenzione da parte di chi le ha progettate di aprirle molto all'accesso? Assolutamente sì, la chiave è proprio quella del far scomparire la barriera all'ingresso, in modo tale che per chiunque, giovane, vecchio, tecnologico o no, uomo, donna che sia, possa utilizzare direttamente questa macchina. E questo quindi è una modalità che, diciamo, tutti i Fab Lab hanno, tutti i Fab Lab e Makerspace hanno. Ecco, ma voi sollecitate anche, questo è il vostro progetto che sta partendo adesso qua a Milano nel vostro Fab Lab, voi sollecitate anche la gente che viene a pensare ad altre cose, per esempio anche ad oggetti che possono essere costruiti per un uso sociale. Faccio un esempio che mi viene adesso, per esempio della gente viene qui però vive in un determinato quartiere, potrebbe essere interessante coinvolgerli, che ne so, in una progettazione di certe panchine che possono essere in un giardinetto locale, cioè voi li spingete anche a riflettere su una produzione collettiva. Sì, come dicevo appunto, la dimensione dell'apertura dei software, della documentazione, il fatto di descrivere cosa ci sta, come si fanno le cose, è nel DNA di quello che sta succedendo nel mondo dei Fab Lab. E chiaramente questa apertura è un'apertura che diventa non solo descrizione di processi, ma un'apertura di coinvolgimento delle persone, e quindi loro le persone possono essere protagoniste e attori di quello che vogliono fare fisicamente in un luogo, non solo più nel mondo dell'immateriale, ma anche proprio nel mondo delle cose fisiche. Se uno ha bisogno di un sensore per controllare la nonna malata a casa, non necessariamente deve comprare un oggetto da un'azienda, ma può realizzarsi un... Che fa quella funzione. Che fa esattamente quella funzione lì. Pochi mesi fa negli Stati Uniti c'è stata una giornata dedicata al software, ma poco cambia, in cui Obama ha detto: non giocate ai videogiochi, fatevelo, fatevi il vostro videogioco. E un po' questa cosa qua, con la digital fabrication, con queste macchine, con queste tecnologie, si può trasferire benissimo ad oggetti fisici. Non giocare alla macchinina, fatela. Concludiamo però su un aspetto importante. Questo tipo di luoghi sono diffusi in altri paesi. Voi siete appena tornati da una grande convention a Barcellona in Spagna. Voi volete affermare che c'è ancora un'attenzione troppo scarsa da parte delle istituzioni, che possono essere i comuni, le regioni, insomma, cioè bisognerebbe riuscire a favorire lo sviluppo di questi luoghi. A Barcellona ci sono i Fab Lab del comune. Sì, è proprio così. Più che un'attenzione scarsa, c'è una difficoltà di implementare. C'è attenzione rispetto a questi temi, fortunatamente. Da qualche anno anche noi abbiamo iniziato a parlare con le varie istituzioni italiane. Ovviamente c'è molta lentezza nel riuscire a implementare politiche, policies, progetti. A Barcellona, come ricordavi tu, c'è stato il Fab 10, la conferenza internazionale di tutti i Fab Lab del mondo, e Barcellona ha iniziato con dei progetti, sì, d'avanguardia, di design, di architettura, ma poi la città ha capito che questi strumenti, queste tematiche, queste modalità di agire sulle cose dovevano essere portate a dei pubblici non professionali e quindi a tutti i cittadini. Loro hanno già aperto 3 Fab Lab del comune, in cui i cittadini possono avere accesso a macchine, le associazioni territoriali possono utilizzare quelle macchine, quegli strumenti per realizzare i propri progetti pedagogici, educativi, di design for all, di inclusione sociale, e diventano dei meri strumenti, ma dei meri strumenti che abilitano nel mondo delle cose, nel mondo delle cose tangibili. Internet ci ha dato modo di produrre e distribuire in maniera facile, alla portata di tutti, i frutti del lavoro immateriale. Bisogna riuscire a capire che non sono dei luoghi solo dove c'è una modalità produttiva nuova, e quindi non guardarli solo tecnicamente, ma vedere il loro aspetto culturale, formativo. Dunque, ma c'è solo Costantino Buongiorno qui a WeMec? No. Infatti ci sono altri 5, però manca uno, Alberto, non era qui con noi, e qui invece ho Zoe Romano, Claudia Scarpa, Cristina Martellosia. E prima tu però ti sei dimenticato di dire una roba piuttosto importante, e cioè che un altro ampio ventaglio di popolazione, che solitamente è tenuto non così in conto per quello che è la formazione e tecnologie, è il problema di genere, insomma, le donne. Qui invece ce ne vengono tante, e a parte il fatto che ce ne sono 3 a gestire il Fab Lab, però ne avete veramente tante che seguono i corsi, vengono. Sì, di sicuro nelle attività che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni siamo sempre stati attenti a creare delle proposte di workshop e attività che coinvolgessero l'ambito femminile, quindi le donne. Quindi unendo, per esempio, una macchina molto importante è la laser cut, che può essere utilizzata con stoffe, pelli, finte o vere, e altri, diciamo, materiali che sono poi essere utilizzati e processati con la macchina da cucire. Poi facciamo uso anche di e creiamo macchine da maglieria per essere utilizzate con... Cosa vuol dire creare? E creare vuol dire prendere le macchine da maglieria che si usavano negli anni 80 e 90, modificarle in un modo strano, particolare, e fargli fare più quello che vogliamo noi, seguendo il gusto che è più contemporaneo. E un altro aspetto importante è quello di trasformare gli abiti e farli diventare intelligenti, utilizzando smart textile, quindi utilizzare stoffe che possono sentire il tocco, possono sentire il tatto, possono sentire delle stimolazioni fisiche e che creano delle reazioni nel nostro abito, degli output, delle reazioni che sono visibili. Quindi premi una tasca e ti si accende un LED, oppure succede qualcos'altro. Questa cosa dei Fab Lab, Chiara, mi piace davvero tanto. E poi si sta diffondendo. In Italia sono circa una 50 ancora, però ad esempio in America, nei paesi anglosassoni, si stanno davvero diffondendo. Adesso sono veramente pochi, quindi probabilmente moltissimi di voi che ci state ascoltando non ne hanno mai visto uno. Siamo 50 in Italia, appunto, come avete sentito nell'intervista, ma magari fra qualche anno, diciamo fra 10 anni, potrebbero essere 3.000. Io credo che, non so cosa ne pensi tu, ma la cosa interessante qui non è solo che vai lì e ti puoi fare dei tuoi oggetti di casa o anche oggetti un po' più sofisticati, ma il fatto che possano venire fuori queste progettazioni un po' collettive. Si può creare una sorta di socialità condivisa che sì. sta alla base di questo Fab Lab, che di solito sono gestiti da giovani, ma sì. che in realtà, vivendo magari in contatto con altre persone, anziani, magari possono anche rispondere a delle esigenze concrete di un vicino di casa o di un vicino di appartamento. Sì, il condomino può avere bisogno di cose che servono a tutti e lì le fai facilmente, rapidamente, e le fai esattamente della forma, del colore, della misura che vuoi tu. Insomma, è uno, non si, no, questo non significa che non si andrà più a comprare niente, però ci sarà tutta questa capacità di progettazioni ad hoc, che però hanno, c'è anche il piacere che di farle insieme. Una socialità, ecco. Esatto. E tra l'altro in alcuni paesi li stanno sviluppando in luoghi comunali, quindi diventeranno luoghi condivisi a disposizione di tutti. Ecco. Sì, infatti, come sentivamo, Barcellona ne ha già parecchi e forse sarebbe il caso di incominciare a fare qualcosa. Pensiamoci. Abbiamo finito. Ci sentiamo tra 7 giorni. Buona settimana a tutti. E buona estate.